Benvenuto, quindi benvenuto Cole. Benvenuto. E io rispondo bentrovati. Grazie. Meraviglioso, grande Cole. No, c'è questa confidenza di base con Cole, perché fammi dire sto preambolo. Facciamo, sì, velocemente. Facciamolo. Allora, Cole in pratica era, io l'ho conosciuto anni fa perché abitava insieme ad un mio carissimo amico, quindi andavo a Milano da questo mio amico e dormivo a casa sua e passavo le serate anche con Cole, che non sapevo nulla di lui, lo vedevo lì, non sapevo assolutamente chi fosse. Poi invece ho scoperto tanto altro, per esempio scoperto che ha il suo progetto Skroda Elettroniche, lo pronuncio bene? Quasi, 99% l'hai detto giusto. Pronunciacelo tu. Skoda Elettroniche. Io ho detto Skroda, ok, Skoda, ho messo male le R. E c'è questo, appunto, è il progetto di Cole, che è una rivisitazione, una rielaborazione di musiche tradizionali della città di Scutari, Albania, che poi è la tua città natale. Sì, esattamente. E io quando ti ho conosciuto non sapevo niente di sta roba, no, se no me la sarei fatta in spiegare. Quando ci siamo conosciuti non c'era neanche questo progetto, è proprio attuale adesso, insomma, da poco che ho iniziato. Perché noi siamo conosciuti. È un progetto nuovo. Sì, è un progetto nuovissimo, anzi c'è, cioè, quasi una specie di anteprima per ora. Ok. Perché non ho fatto neanche un disco, cioè ho fatto un po' di concerti live, per ora è un progetto solo live. Infatti diciamo con Giulia, non abbiamo neanche il pezzo da passare per introdurre Cole, perché appunto no. Il progetto è solo live. però beh, cioè, è una scelta anche per dire: oh, se volete sentire quello che faccio dovete per forza venire a sentirmi, alzate il culo e venite a vedermi. Non voi dite parolacce. Siamo un po' volgari, siamo un po' volgari. C'è quindi anche questa logica dietro a questa scelta di andare solo in live? Sì, però non è che adesso non vuol dire che sarà sempre così. Adesso, okay. Però per ora l'ho pensato così il progetto. L'ho pensato per questioni proprio tecniche, come dire. Okay. Da solo, posso gestirmi tutto da solo. Oddio, la produzione per fare qualche brano potrei comunque farlo da solo, però mi piaceva l'idea intanto di iniziare a suonare semplicemente dal vivo. Okay. E basta, anche perché insomma al giorno d'oggi con la rete qualsiasi cosa si può buttare in rete. Sì. Mentre l'aspetto live secondo me è importante per un musicista e volevo iniziare ponendo l'accento molto su quello che vale, anche perché poi live non ci può essere montaggio, cioè tutto quello che fai live è quello che la gente sente, non è come in un disco in cui buona tu... la prima, no, non c'è, esatto, modo di ripeterlo se la fai male. Sì. Non puoi montare. Questo e poi l'altra ragione è che ha tante parti improvvisative, che improvviso, okay, proprio, dove non è uguale un live da un altro, e fissare queste parti in un disco per ora non trovo una roba neanche troppo interessante, sinceramente. Okay. Nel senso che è bello che sia una roba che uno improvvisa al momento e poi la data dopo, il giorno dopo è diverso. Ascolta Cole, questo progetto che appunto riprende la musica tradizionale della tua città natale è anche, sì, un modo per riavvicinarti alle tue radici, perché tu poi hai questo percorso, no? Tu arrivi in Italia nel 2000? Giusto? No, nel 92 arrivo. Oh, ok, tu arrivi in Italia nel 92, sì. Studi scienze politiche a Padova. Abbiamo perso Cole. Aspetta, uno, abbiamo prontissimamente recuperato Cole, che di nuovo qui al telefono con noi, a meno che non sia ricaduta la linea. Senti, ti stavo chiedendo, questo progetto Skoda Elettroniche è anche un modo per riavvicinarti alle tue origini, visto che tu sei di origine albanese, sei arrivato in Italia nel 92. Poi nel 2000 ti iscrivi, no, scusami, in che anno ti sei iscritto a Scienze Politiche a Padova? Ma io ero venuto in Italia per studiare Scienze Politiche, cioè subito nel 92. Ok, infatti tu sei tipo l'unico albanese che parla padovano. No, non credo di essere l'unico, perché ce ne sono qualcun altro. Okay. Ma normalmente che spesso noi extracomunitari di qualsiasi paese veniamo, alla fine prendiamo l'accento della zona dove viviamo, anche perché in Italia difficilmente, a parte Milano magari, difficilmente si parla in italiano corretto, insomma ogni città, c'è un italiano molto cadenzato. Sì, cioè ogni città c'ha un po' almeno perlomeno la sua inflessione, insomma, dialettale. L'ho fatto anche io quando sono venuto a Bologna dalla Calabria, che cercavo di mirare un po' la parlata bolognese per sentirmi integrato. Questo è razzismo nei miei confronti, razzismo territoriale, regionale. Quindi è un modo per riavvicinarti alle tue radici? Ma ti direi anche di no, nel senso che io nel senso che io spero bene di non essermi mai allontanato dalle mie radici, nel senso, tant'è vero che questo progetto l'ho pensato perché queste canzoni le avevo, cioè, continuamente, sia per i fatti miei, senza neanche pubblicarle, niente, avevo sempre pensato di fare una roba del genere, che anche con Two Pigeons avevamo fatto tutto l'esce, che la cantata Chiara in albanese, è già quella canzone già lì, ormai più di 6 anni. Avevi un po' ripreso. Insomma. Magari era più un modo per portare la cultura albanese in Italia. Esattamente, questo piuttosto che sia la cultura albanese ho pensato che un'altra cosa, in verità, che sono tutta la mia generazione, bene o male, di albanesi che sono in Italia, a parte me, hanno tutti dei figli che sono ho pensato anche al fatto di avvicinare questi albanesi di seconda generazione, che sono giovanissimi comunque, cioè al massimo possono avere 20 anni, insomma non di più, avvicinarli a questa musica, ma con delle sonorità contemporanee che per loro li risultino delle sonorità contemporanee, più vicine a loro, che vicine alla musica che ascoltano, che poi in verità non c'entra niente per certi versi, però per altri versi le sonorità sono un pochino quelle. Ok, e poi aggiungo io un terzo motivo per farci anche dei soldi. Magari non sarebbe male, però sono stronzo. Che per ora è troppo lontana questa prospettiva. Diciamo una cosa che non abbiamo detto su Call, con cui stiamo parlando in maniera assolutamente amicale, perché appunto io l'ho visto tante volte, anche Giulia l'ha conosciuto di persona, ma Call è uno che è nella musica a certi livelli da tanto tempo, anche perché sei il tastierista. Dimmi se sei o eri, non so mai come. No, lo so. Sei il tastierista del Teatro degli Orrori, oppure di fare qualche gaff, ma sei anche insieme a Sara Stride nel suo progetto. Sì, a Sara gli ho prodotto, abbiamo fatto insieme il disco. Esattamente. Oggi è uscito il singolo. Sì, infatti esce proprio oggi il singolo di Sara. Il singolo, sì. Hai avuto l'altro tuo progetto, che forse quello si è fermato, quello dei Two Pigeons. Anche quello in una pausa un po' lunghissima. Ok, è un po'. È fermo, però, okay. Ma non chiuso, ecco. Questo per dire che Cole è uno che di musica ne sa a pacchi. Già che siamo in radio, a proposito anche delle nuove generazioni, ho prodotto anche un paio di brani di Mezzosangue dell'ultimo disco. Vero, la cosa che faceva ridere è che ero con un mio amico, con il mio carissimo amico di vecchia data, Scutari, parlando così come sto parlando con te. Gli stavo raccontando cosa stavo facendo, cosa ho fatto, e io convinto che lui non conosce Mezzosangue. E invece? Invece lo conosceva suo figlio, che era un fan sfegatato di Mezzosangue. E torna quell'intreccio di generazioni di cui parlavamo prima. Esattamente. Grazie mille. Grazie a voi. Ti ringraziamo e a questo punto spero che ci vediamo presto. Devo passare a salutarti. Passerò anch'io a Bologna, magari personale, con Skoda elettronica. Quando ci sei, così riusciamo a sentire qualcosa. Anche perché o dal vivo o niente, così funziona. Skoda elettronica. Esattamente. Grazie mille, Cole, un abbraccione. Grazie a voi, un abbraccio anche a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, ovviamente. Cioè, soprattutto a quelle. Sono la Gattini in bacchetta. Ciao, Cole, buona serata. Buona serata, ciao. Ciao.